Ben vedo che m'ha letta con un parlar fallace, ma così ancor mi piace, e ogni sua paroletta mi fa l'udito certa consonanza che accorda qui disegno una speranza. Se pensi di bugiardi tanto di me.